Allora, 17,7 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e ve l'avevamo annunciato, siamo riusciti a stabilire un collegamento con Atene. Benvenuto qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Si tratta di un concentramento il giorno dell'anniversario dell'assassinio di Alexis. Raccontaci un attimo quello che è stata la giornata di oggi e di ieri, dove c'è stato ad Atene il corteo in difesa degli spazi occupati. Ok, allora, sono a tutti e tutte, qua si sta raggruppando il concentramento per la partenza di questo corteo, che è quello, l'anniversario, penso, come diceva la compagna prima, è quello che si fa ogni anno in ricorrenza dell'assassinio di Alexis Grigoropoulos, quello pomeridiano. Tutte le mattine, da quando è successo, c'è anche un corteo studentesco che c'è stato anche stamattina, molto abbastanza numeroso, insomma, secondo che rispettava le aspettative, superava le aspettative dei compagni qua, con una presenza poliziesca molto molto elevata, si è svolto tutto abbastanza tranquillo. E adesso ci sarà quest'altro corteo, le cui intenzioni sono di finire nel quartiere, perché a differenza degli altri anni, quest'anno c'è un po' l'incognita di cosa accadrà, di cosa la polizia vorrà far accadere, perché un po' negli ultimi mesi, come insomma si è saputo negli ultimi cortei grandi, come quello del 17 novembre, che è l'anniversario della ricorrenza della dittatura della Junta, è stato messo in campo un gentissimo dispiegamento di polizia, e insomma, so che per cui la gente adesso sta un po', le compagne qua sono un po' in cerca di capire come cosa accadrà. Ci sono varie possibilità, l'idea è quella però, appunto, di entrare nel quartiere, che insomma è un po' un luogo simbolo sia della presenza dei compagni in questa città, dell'omicidio di Alex e delle occupazioni che stanno venendo, di alcune occupazioni che sono state sgombrate, insomma, da questa nuova stagione repressiva in atto in Grecia da quest'estate. È proprio da quest'estate che abbiamo iniziato un po' a raccontare quelle che sono state le operazioni di attacco a diverse occupazioni. Abbiamo visto anche l'epilogo preoccupante di diverse persone deportate in centri di detenzione, essenzialmente per senza documenti. C'è stato un attacco sistematico. Proprio nella giornata di ieri si continuava a mettere al centro una risposta necessaria. Ti va di accennarci un pochino? Sì, ieri scadeva il tempo entro il quale il governo aveva invitato le persone e gli occupanti a liberare, diciamo, volontariamente i posti occupati, che riguardano le occupazioni abitative, quelli che ospitano rifugiati, i posti politici, eccetera. Diciamo, qualche settimana fa il governo aveva invitato appunto a liberarli. Ieri due assemblee che racchiudono varie situazioni, organizzazioni di compagni qua nella zona, hanno lanciato questo corteo, che c'è stato, è molto, molto partecipato, a differenza di quello di stamattina. Adesso con pochissima polizia, una presenza molto discreta di guardie, e poi il percorso verso il centro, e poi più o meno se ne è ritornato, si è sciolto sempre a Stratia sotto il punto dove è posizionata la targa in memoria di Alexis, che è dove è stato ammazzato. Oggi, cioè ieri e stamattina, al contrario, sono state delle occupazioni nuove, un po' quali tra simboliche, altre no, purtroppo non so molto di più, perché sì, non lo so, non posso dare molti aggiornamenti, però c'è stata, ecco, la volontà di dare una risposta di questo tipo. Anche pratica. Sì, anche pratica, si aspetterà. Adesso si dicevano un po' tutti in apprensione sul fatto, cioè c'era l'eventualità che facessero mosse, diciamo così, frontali, un po' spavalde, e provassero a sgombrarli in questi giorni, quindi erano un po' tutti sull'attenti, però in realtà questa cosa non è avvenuta. Adesso bisognerà vedere da qua in poi, sotto Natale, questa cosa comunque avverrà. Il governo ha lanciato questo invito, difficilmente lo farà accadere completamente nel vuoto. quindi, assolutamente. Quindi insomma, lì l'attenzione è un po' alta. Senti, alta anche nei prossimi giorni. Siete in tanti al concentramento adesso? O piano piano? Sì. abbastanza molti, cioè, direi di sì, anzi alcuni compagni si meravigliavano, poi dicono che ci sono varie sigle del antagoniste greche che di solito non ci stanno, anche sigle di sinistra, organizzazioni comuniste che non sempre partecipano a questa giornata, invece oggi sembra che siano abbastanza numerose, cosa io non sapevo, però insomma questa è stata un'osservazione che hanno fatto dei compagni qua, però sì, c'è abbastanza gente, siamo sopra le 2000. Dai, allora vuoi aggiungere altro? Se no, magari in questi giorni ci faremo altre chiacchierate. Va bene, allora dai, sì, aggiorniamoci prossimamente. Grazie dello spazio. Allora, buon corteo a tutte e tutti. Buona serata, grazie. Dai, a tutti e tutti. Ciao.